nostra luna ti fai sempre aspettare quando l'ora d'amare ti vuol lassù. C'è il mio amore che si lascia baciare se ti vede spuntare nel cielo blu. Musica d'una notte di stelle d'oro, le tue note son tristi al cuore, senza il raggio lunare. Pigra luna, mi fai tanto soffrire, se ritardi a salire lassù nel stelle d'oro, le tue note son tristi al cuore, senza il raggio lunare. Pigra luna, mi fai tanto soffrire, se ritardi a salire lassù nel cielo. Lassù nel cielo.